Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave, buonasera da Michele Tosò. Oggi è mercoledì, come sempre, come da nostra tradizione, mercoledì facciamo il live. Io sono molto contento di ricevere e di accogliere stasera qui dal vivo i Controtempo. Buonasera Controtempo, avete buonasera, fatto un buon viaggio? Buonasera. Alla grande. Alla grande, dall'Emilia, non tanto difficoltà, qua un momento di traffico ma è superabile, vero Marco? Ma sì, la difficoltà è solo i soggetti che sono in macchina. Ah, interessante, questo è molto interessante. Tra cui questo quello è che decisamente guida, interessante. Controtempo, bel nome Controtempo. Musicalmente io prima ho fatto una piccola anteprima al microfono con Roberto nella trasmissione precedente, vi ho sposato tra il pop e il rock, però con molta volontà di fare molto live, cioè vi piace molto suonare dal vivo. Qual è questo sposalizio, Marco, tra il pop e il rock? Perché è nato così, visto che l'input forse l'hai dato te all'inizio di carriera della band, nel 2004? Sì, ecco, insomma, la nostra energia è quella della musica rock, perché è un bel modo di esprimersi, no? Il rock è quella cosa bella che ti fa urlare quello che hai dentro, no? Certo, cioè, la certo. Definizione più bella. E ecco, la parte pop ci piace da popolare, no? Che è insomma, nelle nostre canzoni c'è l'energia rock con le linee melodiche tipiche della canzone, ecco, italiana. La melodia, c'è sì. La melodia. Rock sì, certo. Che si sposa felicemente con la melodia, che fa parte della musicalità italiana. Sì, sì, sì, infatti è un bel modo di c'è l'energia del rock con insomma, le melodie della terra che ci appartiene, che è l'Italia. Certamente. Facciamo una cosa fondamentale, Marco, presenta i tuoi colleghi, dai, visto che ci siamo. Ecco, allora, io sono contento di iniziare da Patrizio Pat Pastorelli, di solito al basso, stasera in chitarra acustica. C'è una chitarra acustica stasera. Vedremo cosa succede. Vediamo. Ma cum laudate, cioè, non è che... Andrea Pozzetti, alla tastiera. Buonasera. Buonasera, Andrea. E poi abbiamo il maestro Luca Bennabenazzi, alla batteria, stasera, ecco, un po' le percussioni. Ciao, un po' di percussioni. Però anche lui suona chitarra in finger pickering, fa le orchestrazioni. Ah, fa un sacco di cose, allora, fa un sacco di cose. No. Non c'è Elvis stasera che... Stasera purtroppo non c'è Elvis, è la chitarra solista che, ecco, ci starà ascoltando, lo salutiamo. Poi salutiamo Damiano, che è il nostro manager, che ciao, è là davanti. Ciao. E poi c'è anche Michele, che l'ha nascosto. Sì, ecco. Esattamente. Bene, questi sono i Controtempo, ragazzi. Una band che ama suonare dal vivo e ama essere insieme, fare gruppo, quello è importante, vero Marco? Sì, siamo veramente amici, ecco, poi c'è davvero delle sagome particolari qua, come dicevamo prima. È sempre un piacere andare via insieme. È solo perché non si parla mai degli assenti, Elvis è praticamente quello che è preso di mira stasera. Salutiamo Elvis che ci sta ascoltando. Elvis. Ma dove provenite esattamente, dall'Emilia, da dove praticamente il posto? Tra Modena e Bologna. Tra Modena e Bologna, che bella, perché la bella zona Modena e Bologna. Io ho un certo ricordo, se di Modena ricordo come si chiamano, l'Equipe 84, ricordo i Nomadi. Soprattutto l'Equipe che era un gruppo molto innovativo all'epoca. Il buon Maurizio Vandelli è stato il primo che ha suonato il sitar in Italia, voi lo sapete, no? Grande, quella Modena era considerata Liverpool italiano. Esattamente, no? E l'Equipe, forse voi lo sapete, ma se non lo sapete ve lo dico, in questo momento aveva una bella Rolls Royce gialla, allora aveva una bella Rolls Royce gialla e giravano con la Rolls Royce gialla all'epoca l'Equipe, si parla di tanti anni fa. Modena tuttora, ogni anno il 29 settembre fanno una per tutta la città, palchi montati su tutte le strade, proprio per rivivere l'epoca beat. Favolosa l'epoca beat, che sono dei gruppi straordinari, Nomadi, Equipe e tante altre. C'era anche Francesco, il grande guru, che praticamente adombrava tutto, chiaramente Francesco Guccini. Voi da cosa avete qualche input relativo a quella musica oppure no? Assolutamente no. C'è qualche addentellato, qualche input che vi può, attaccare sia via così percepibilmente quel discorso? Ma come influenza diciamo che quello che abbiamo sempre respirato un po' nella nostra terra, davvero, cioè tra Modena e Bologna c'è una quantità anche di artisti. Tra la via Emilia e West praticamente. Ecco. Esattamente, è la cosa importante, fra la via Emilia e West, è bello, è molto americano, ma è molto italiano, è molto melodia, assolutamente melodia, perché i vostri pezzi sono molto accattivanti, entrano subito in circolo e questo è importante, che la gente deve capire subito immediatamente qual è il pezzo. Ecco, no, cioè arrivare immediatamente alle persone come stile comunicativo è uno degli obiettivi dei best. Band. Poi, davvero anche il rock italiano è sempre quello che è stato un po' il riferimento, anche se poi ci sono influenze tra le più diverse, ecco, dobbiamo sempre a ripeterlo perché tra i vari componenti della band ci sono davvero influenze molto diverse. Ma la band, i componenti, Marco, hanno suonato in altre band prima di arrivare alla band Controtempo oppure no? Ma sì, cioè, e poi cioè, tuttora vuol dire c'è molta apertura musicale, no? Vero? Cioè, anche in situazioni diverse. Ok, ok, quindi realmente c'è un gruppo aperto in ogni caso, però dal vivo suonate tutti qua. Dal vivo vi devo chiedere questo, c'è dello sperimentalismo quando suonate oppure seguite una traccia prefissata? Il disco è così? E dal vivo è quasi così oppure è diverso totalmente? Maestro, cosa dici, maestro? No, per i concerti dal vivo noi di solito rielaboriamo i pezzi in modo da... Anche l'idea è elaborate, cioè li cambiate leggermente. Sì, per far sì che risultino proprio con un impatto migliore, che con gli arrangiamenti esattamente come nel disco non sarebbe possibile. È giusto, è una cosa veritiera. Anche se negli anni 60 si usava a giocare con la carta di tornasole praticamente, le cover vengono fatte totalmente uguali, cambiando solamente le parole, inventate da Mogol, in genere era così praticamente. Anche se però il testo non era proprio lo stesso, però insomma. E anche la fase creativa differente a quella del live. Noi abbiamo avuto, ecco, che li citiamo adesso, due grandi produttori che sono Massimo Varini e Alex Bagnoli, che comunque hanno curato la produzione del disco. E cosa ti hanno dato? Cosa ti hanno dato questi due produttori del disco tutti i giorni eroi? Hanno aiutato a dare un'identità definita, perché come detto, cinque influenze diverse, insomma comunque si suonava insieme sempre con gli arrangiamenti live, che è un'altra cosa che mettere tutto su disco, no? Certo. Quindi hanno prima di tutto fatto il gran lavoro di creare un'identità e sono stati bravi a creare un'identità partendo da quello che eravamo, non come ogni tanto salta fuori. Hanno smussato certe cose. Sì, ecco, certi produttori a volte partono per la loro idea senza curarsi di quello che hai, no? Cioè invece loro sono partiti da quello che eravamo noi, quindi non hanno fatto stile X Factor che si prende uno e poi lo si modifica. Esatto, e poi se lo butta nella spazzatura quando non serve più. Ok, andiamo avanti per una cosa fondamentale, apriamo la nostra finestra, sentiamo il primo pezzo che avete scelto in scaletta da disco. Ti ricordi che traccia era? La traccia numero uno, che è, no, la traccia numero due del disco, scusate, che è fondamentale, la traccia numero due che è fondamentale, che è Come Bud Spencer e Terence Hill, di cui dopo insomma dopo parliamo ampiamente il perché. Ok, sentiamo allora. Quasi una storia imparata a memoria, due sogni, un cassetto e due gambe per rincorrerli un po'. Come dentro ad una storia che ti riempie l'aria, che dice che noi siamo vivi così, dice che noi corriamo ma non scappiamo. Noi siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill, con la camicia o in mezzo ai guai, ti salvi come puoi. Se collaudate o consumate, dipende come le hai lasciate vivere. Se le lasciate sorridere in mille avventure fatte così, e in mille altre ancora finché possiamo. Noi siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill. Un po' ci nasce, un po' lo fai, ma poi ci credi e va. Siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill. La coppia è strana, sì, però non la dividi mai. Mai, mai, mai, mai, mai, mai. Oh, non la dividi mai. Oh, oh, oh, oh, non la dividi mai. Non la dividi mai. Mezza botte di Natale, con o senza la camicia, a pari e dispari, la vita gioca quando vuoi. Noi siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill, con la camicia o in mezzo ai guai, per non fermarsi mai. Ancora un poco e ci arrabbiamo, però poi tanto giochiamo, ma sì, però ce la giochiamo noi. La vita è strana, noi. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, il discorso è, questo finale dava, metteva in soppuglio i DJ praticamente, era un finale un po' particolare. In effetti non è finito il pezzo, manca ancora qualche secondo, era questa coda, perché come mai questa coda così divertente, così fuori dell'ambito del pezzo? È una citazione di una colonna sonora, ecco, di, rielaborata, ecco, di uno dei film di Ballet Terence, coi cazzotti veri presi dai film. Ah, perfetto, coi cazzotti veri. Adesso citiamo il perché Marco e soci avete così avuto l'idea di collegare Bud Spencer e Terence Hill a un vostro pezzo, praticamente. Com'è nata l'idea? Visto che abbiamo, parleremo anche di Venezia, visto che a Venezia siete stati all'inizio di questo mese, appunto per questo motivo. Allora, l'idea è nata così, nel senso che un po' quello che dicevamo prima è... Tante persone che incontravamo dicevano che era un progetto valido questo di Controtempo, ma che in qualche modo volevano costruirci senza partire da quello che eravamo noi, come cercando di cambiare quello che eravamo. Cioè, allora noi a un certo punto non ci stavamo, anche perché pensiamo che sia anche un po' la morte dell'arte, che essenzialmente è dire quello che uno è, no? Spontaneamente. Poi chiaramente con qualcuno che ti fa migliorare. Sì. Però non ci andava bene una certa logica in cui si vedeva la musica come un consumo e come far finta di essere qualcun altro. Allora abbiamo cominciato a pensare quale poteva essere il modo per poter partire alla grande, partire, ecco, con una nostra identità. Allora io, insomma, tutti siamo cresciuti con i film di Bud Spencer e Terence Hill, e nel 2006 era stata scritta questa canzone proprio per parlare di quell'approccio bello e positivo alla vita che fa parte dei loro film, no? Ricordiamo il titolo, Marco, del pezzo. È come Bud Spencer e Terence Hill, infatti, cioè, essere un po' come loro, no? Vivere come loro, nel senso che partivano sempre da situazioni squattrinate, scombussolate, e in qualche modo con la creatività se la giocavano, riuscivano a costruire sempre qualcosa di bello. E poi era bello come anche, no, i cattivi, il ruolo dei cattivi in quei film lì, erano sempre gente che si metteva quasi in ridicolo da sola, no? Quindi vuol dire che nonostante il male uno se ne va per la sua strada cercando di fare bene, no? E quindi questo era quello che vivevamo noi. E io ho pensato, ero in macchina, mi ricordo, dicevo, ma pensa se Bud Spencer e Terence Hill venissero a fare il video di questa canzone, noi potremmo avere già una bella credibilità. Certamente. Allora è partita la caccia al tesoro. Si è partito a fare delle telefonate. So che Terence Hill girava a Gubbio Don Matteo in quei giorni. Certo. Lo sta girando anche adesso, visto che l'ottavo episodio sta andando in onda proprio adesso. Niente, con una serie di telefonate sono riuscito ad andare sul set, gli ho parlato, gli abbiamo detto, Terence, la situazione è questa. Noi avremo voglia di fare con la musica quello che anche te fai col cinema, no? Cioè di dare un certo messaggio bello di vita pieno, senza far finta di essere qualcun altro, cioè qualcosa vicino alla gente, no? Gli ho fatto sentire la canzone Eroe, la canzone come Bud Spencer and Seal, e lui ha detto, io vi do una mano, vengo, perché una cosa così è bella e non può rimanere nascosta. E dopo anche Bud Spencer l'abbiamo contattato, è partito con la caccia al tesoro anche con lui, e lui, anche lui si è affezionato, e niente, sono riusciti a 17 anni dal loro ultimo film ad avere l'apparizione di entrambi, quindi è stata una... E questo avete coronato a Venezia il 2 settembre praticamente. Sì, è stata un po' una consacrazione cinema. Al mostra del, no? Cinema. Per questo progetto che è partito al confine tra cinema e musica, no? È stata una bella consacrazione fare un concerto al Festival di Venezia, patria del cinema. Ah, è una cosa meravigliosa. Sì. Che emozioni avete avuto quel giorno che siete stati a Venezia? Tanta. Molto bello, sì, davvero è stato bellissimo. Insomma, e poi anche commovente, perché pensare che questo è davvero un progetto che non è stato costruito a tavolino da nessuno, ma è proprio un progetto che è nato dalla vita reale. Cioè, noi che suoniamo insieme, noi che siamo cresciuti insieme, noi che abbiamo avuto nessun aggancio di qualcuno, non conoscevamo nessuno zio di Terence Hill, nessun di Bud Spencer. Loro hanno proprio accettato il nostro progetto perché sono entusiasmati per quello che era. Quindi. È sempre bello, no? Vedere che comunque quando riesci in qualche modo con la tua fatica a realizzare qualcosa di bello, no? Per poter dire e poi poterlo a tua volta trasmettere agli altri. Perché come qua stasera in radio, come quando facciamo i concerti. Certo, e musicalmente, Marco, come l'avete creato questo pezzo? È molto accattivante, molto veloce e molto ritmico. Ma l'idea del pezzo musicale, non l'idea del pezzo come scrittura musicale, è nata fra di voi o è partita da uno solo e poi gli altri sono accodati? Ma le volte parte che io magari scrivo l'idea della canzone chitarra e voce, poi dopo insieme la si rielabora. In questo caso poi c'è stato anche l'intervento dei produttori. Certo, che hanno dato una mano per rielaborare, sì, per trovare il pezzo finito praticamente. Bello, è una bella cosa, un bel lancio sicuramente, un lancio di un certo peso, nato per caso e sviluppato in una certa maniera, questo è importante. 22:19, adesso sviluppiamo in una certa maniera, suoniamo, che cosa, per iniziare il live vero e proprio. Cosa suoniamo? Cosa suoniamo, maestro? Due, maestro due, maestro uno, maestro due. Signore e signori, Terra e Libertà. Benissimo, Terra e Libertà. Alla voce. Aria, però. Dimmi. Terra, Aria e Libertà. Terra, Aria e Libertà. Forse mancava l'aria fatta in maniera momento, sintetica. Allora. Terra, Aria e Libertà. Dal vivo di Controtempo a Rock Wave 22:20 in diretta qui a Padova. Ok. Bassi sullo schermo di un PC, le passerelle dentro al finto mondo web, mentre un soffio d'aria passa l'aria e va da una fessura alla finestra che porta fuori con la testa. E c'è voglia di terra e libertà, lo so che c'è sete di aria e verità, che porti luce all'anima, che dia respiro a un cuore che si muove. C'è! E labbra stanche sul bicchiere di caffè, ritmi e stress perfettamente da popstar, e gare a chi fa più successo alla TV, ma grazie a Dio c'è un ragazzino che attacca l'ampli e fa casino. E c'è voglia di terra e libertà, lo so che c'è sete di aria e verità, che porti luce all'anima, che dia respiro a un cuore che si muove. C'è voglia di terra e libertà, lo so che c'è, lo so che c'è sete di aria e verità, che porti luce all'anima, che dia respiro a un cuore che si muove. C'è! Hey, boh! Sogni da scommettere, oltre a complimenti e calci in faccia, vita da far vivere, e da più ritmo un cuore che non batte solo per te. C'è voglia di terra e libertà, lo so che c'è, lo so che c'è sete di aria e carità, che porti luce all'anima, che dia respiro a un cuore che si muove. C'è na na na na na, oh, c'è na na na na na. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, eccoci qua. Aria, terra e libertà è proprio la vostra. Vi contraddistingue, cioè la vostra immagine, l'area di libertà, di terra e di libertà. Libertà di far musica, di suonare, e libertà di trovare la vostra terra, il vostro luogo, la vostra appartenenza. È così, Marco e company, perché possono rispondere anche i company, sì, certo. Chiaramente. Infatti, no, sì, ci tengo a dire, terra, aria e libertà è proprio una voglia delle cose semplici, no? È una voglia di essere liberi, di fare, sì, cose semplici, di trovare quella libertà, non inteso come fare quello che ti pare oppure trovare il modo che ti faccia essere più bravo degli altri, ma proprio la libertà, ecco, di anche sapere donare quello che hai, no? La libertà di non aver bisogno di essere più bravo degli altri per sentirti libero e contento. Quindi terra e libertà pone l'accento un po' sulle cose semplici e le mette in contrapposizione con tante cose in cui alle volte ci andiamo ad autoimprigionare, no? Come sempre questo stress di dover sempre arrivare con questo. E allora niente, è una canzone liberante anche da fare dal vivo, perché parla di queste cose che sono le più vere, no? E poi una cosa, una caratteristica che vogliamo ribadire, ed è giusto ribadire, che serve, che la gente è invitata a cantarle assieme a voi, e questo è importante. Ah, sì, certo. È un'esperienza favolosa cantarle assieme, dà proprio quello spirito, è una caratteristica fondamentale di Controtempo. Non so se mi sbaglio, ma è così, la vostra filosofia è questa, non è così, maestro? Sì, certo. Maestro mi dice, puoi alzare il microfono, maestro, se no sì. Ti viene un ernia così. Infatti è una delle soddisfazioni che abbiamo soprattutto negli ultimi concerti, quella proprio di vedere cantare le persone che ci stanno ascoltando, che cantano con noi le canzoni mentre le suoniamo. Quello è fondamentale. E anche l'ideologia si parte da questo discorso qua, Marco, non so se siete d'accordo anche voi. Assolutamente. Siete partiti... Sanno le parole meglio di Ben, tu sei maestro 2, il maestro 1 praticamente. bello il positivo. Io ho visto qua, avete eseguito dal vivo questo pezzo, molto vivace, accattivante. L'acustico qualche volta può essere anche più difficile dell'elettrico, secondo me. Sì. Però è bello, è una bella esperienza l'acustico. In una radio, l'esperienza dell'acustico in una radio è fondamentale, secondo me. È piacevole, è assolutamente piacevole. Poi abbiamo il maestro Pozzo Pozzetti, che è un fan dell'acustico. Ecco, maestro Pozzo Pozzetti, puoi dire qualcosa? Allora, io sono veramente un fan, effettivamente, anche degli arrangiamenti, della rielaborazione in acustico. Arrangi te i pezzi? Li arrangiamo generalmente. Ma dove parte l'input dell'arrangiamento? Tu che sei la tastiera, oppure tutti quanti messi insieme? Allora, a me personalmente, ad esempio, quando si arrangiano questi pezzi in acustico, siccome mi piace molto il suono del pianoforte acustico, perché io ho sempre suonato parecchio, tra l'altro dove sono in altre band diverse? Io prima? No, suonavo praticamente il pianoforte acustico e studio composizione, quindi è proprio anche con l'impatto io porto anche un po' forse questo piacere tuo background anche, precedente, sì, del sentire, quindi lì voglio dire, quando ho sotto le mani il pianoforte, quindi le linee diventano anche molto più essenziali proprio per l'acustico, diciamo che naturalmente l'arrangiamento viene da sé. Sì, però dal vivo date un tocco anche elettrico alle cose? Ovviamente sto parlando dell'acustico adesso. Diciamo che dal vivo c'è il fatto di non rimanere diciamo agganciati esclusivamente a quello che è la parte che si può sentire nell'album, quindi c'è un minimo di libertà, però voglio dire, i suoni sono fondamentalmente quelli dell'album, quindi certo. e anche per quanto riguarda il discorso di prima del fatto del pubblico che canta, e credo che proprio l'energia del palco, del live, poi ha un gioco di ritorno di energia anche sul palco, quindi ci si carica tutti insieme. E quante volte lo ripetete il riff se la gente continua a cantare? Comunque il momento di libertà finisce sempre quando lui è al pianoforte e il maestro Benna Benassi si alza dalla batteria per controllare che note sta facendo. Lui controlla. No, perché ci sono diverse influenze, no? Per cui ogni tanto lui mi dice cosa suonare al pianoforte. Damiano dice di sì. Esatto. Il maestro controlla, non lo sapevo. Controlla. Sì, no? Intanto propone arrangiamenti per gli altri strumenti, quindi attenzione, che l'esecutore prende ordini da lui, dal bassista. Un precisino. Ci influenziamo tutti. Stasera suona la chitarra al bassista, però. Elvis, cosa fa Elvis? Abbiamo nominato Elvis. Dunque, Elvis è il chitarrista, quindi sfoggia i suoi assoli anche in live, però è anche devo dire, tra l'altro ci siamo stupiti anche ultimamente, cioè ha una manualità anche nell'utilizzo, cioè nella produzione proprio dei pezzi, come home studio, che però non ha nulla da invidiare, diciamo, a grandi produttori. Insomma. Però è bravo, lo è bravissimo, sì, secondo me. Beh, sì. Vabbè, lo risalutiamo un'altra volta. Ciao Elvis. Okay. Nei viaggi in macchina, il vizio di fare continuamente percussioni di batteria sulle ginocchia, sul cruscotto della macchina, quindi quando si fa un viaggio di un paio d'ore diventa leggermente pesante. Ah, però leggermente. Bene, bene, vedo che c'è un gruppo spirito comunicativo molto interessante. Sì, molto in ogni modo, lui spesso fa anche per... Ah, fa così. Bene. Benissimo. Risalutiamolo, ciao Elvis. Musicalmente, quando è nato questo pezzo, Marco? Anche gli altri, chiaramente. Che è datato praticamente. Sì, penso sia 2008. Questo è uno di quelli recenti che è finito nel disco. Ecco, perché essendo che comunque ci sono diversi anni di carriera, quando si è arrivati al primo disco ufficiale, è una sorta di best of. No? Best of, da dove parte il disco ufficiale? Dal primo pezzo, dove è nato? 2004, 2005? Parte del 2004, sì. Ma ce n'è ancora di questo disco il primo pezzo? C'è un pezzo del 2004 dentro questo disco oppure no? Sì, direi che è ora di far rock and roll, ancora prima di Eroi. Perché Eroi è la canzone che prima di Bud Spencer e Terence Hill ci ha portato in giro comunque, no? A fare cose importanti. Ecco, siamo stati per dire anche all'Agora dei Giovani di Loreto davanti a 500.000 bene. Persone. Però, nel 2007. Che esperienza è stata quella là? È stata proprio bella, perché prima di tutto, insomma, scrivere la musica con un linguaggio che comunque è stato giudicato per rappresentare anche quella situazione è stata una cosa bellissima. Anche certo. Perché personalmente, per me che ho scritto il testo, adesso poi avremo modo di parlarne bene, ma c'è stata un'influenza forte anche di alcune parole belle di Giovanni Paolo II ai certo. giovani, no? 500.000 davanti a 500.000 persone, allora, una cosa meravigliosa. Ecco, allora niente, andarlo a suonare lì è stato proprio come una consacrazione, un po' come andare a Venezia dopo aver fatto il video con Bud Spencer. Ah, beh, un'altra esperienza molto importante, sì, fondamentale. Sì, sì. No, è quella fa parte di quella magia. Quando uno scrive una canzone pensando di andare a colpire una determinata situazione, poi quando si materializza è una cosa bellissima, no? È qualcosa che... Il nome Controtempo mi viene in mente questo, al di là che avete nominato la band così. Controtempo perché potete andare avanti senza imposizioni di nessun altro. Controtempo, come volete voi praticamente. È così, maestro 2. In realtà la scelta del nome sarebbe del maestro 4. Ah, il maestro 4 è lui. Sì, controtempo è un modo per andare controcorrente, ma non contro, nel senso di fare la guerra a qualcuno. No, controcorrente, infatti, di essere liberi di fare le vostre scelte. Sì, sì, di essere. Ma perché oggi spesso sembra che sia imposto uno schema abbastanza standardizzato a cui tutti devono adattarsi, no? E infatti noi ne abbiamo fatto anche le spese, perché noi ci è stato detto: ragazzi, questa cosa si vende meglio che un'altra, voi cercate di diventare così. Allora, prima di tutto non siamo d'accordo sul fatto che alcune cose si vendono meglio che le altre. Secondo, fare musica non è fare saponette o prodotti per l'igiene certo, dentale. Certo. E quindi voglio dire... Eppure sono necessari, sì, vogliamo importante, ricordiamolo, sì. Non sono contro i denti frischi, no, voglio dirlo. No, si sta perdendo davvero la capacità di far venire fuori la parte più bella e autentica che c'è dietro una persona che scrivendo una canzone vuole comunicare qualcosa di profondo, no? Sì, ma con questi produttori e con questo manager che abbiamo qua davanti aveva avuto molto libertà, non ci sono stati certo, problemi. Certo, noi infatti la prima conquista grossa ancora prima di Bud Spencer & Terence Hill è stato il creare questo team di lavoro composto da questi produttori e da questo manager discografico Damiano Bonvini. L'etichetta sua di Damiano come si chiama, visto che metti su per quella? DMB Music. Ecco, DMB Music. Diciamolo chiaramente, perché diciamo che trovare un discografico che lavora con certi principi alla base, con un certo modo di lavorare, è una cosa più unica che rara. Cioè, certo, quindi siamo certo. Davvero, questo qua è stata una fortuna per me, che è del miracolo, insomma. È bello. E poi, tra l'altro, c'è anche un'amicizia bellissima, cioè al di là del rapporto lavorativo. Questo è importante, è fondamentale. Un po' il sesto controtempo. È vero, è il sesto controtempo. Come la band grandi avevano il sesto protagonista e voi avete il sesto controtempo, mi pare giusto. 22:33, cosa facciamo? Sentiamo un pezzo da disco, cosa dite? Dai. Che traccia avete scelto? Cosa tracciamo? Che traccia del disco avete scelto, vi ricordate? Allora, assolutamente Musica nello stomaco, che insomma è uno tra i miei preferiti. Uno dei tuoi pezzi preferiti. Adesso lo sentiamo, ok? Allora. Svegliare da un sorriso, i mezzo a tutto il mio casino, apro gli occhi e cerco il sole, e tu diventi già il primo pensiero che gira su di me, quasi come se desse il ritmo che non c'è, non c'è. E tutto il mondo gira con te, sei come musica nello stomaco che spacca l'aria, con la sua energia sei una melodia che non stanca mai, sei la preghiera che spendo con Dio. Strana luce nel mattino, mi fa staccare dal cuscino, mi fa aver voglia di ricominciare. E tutto scorre più veloce, metto in spalla la mia croce, che con te sembra molto più leggera, leggera. E gira insieme a me, quasi come se mi sapesse spingere più in là, dove non rimango a metà. Sei come musica nello stomaco, spacca l'aria come un rock and roll, sei bella più di un gol, segnato in Serie A, sei tutto quello che chiedo a Dio, sei come l'opera più bella che ci sia, sei come un angelo che canta una poesia che mi fa piangere e che mi fa ridere. Questa canzone la scrivo per te, la scrivo per te, la scrivo per te. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Adesso parlo con Patrizio, visto che ci siamo, maestro 2. Questo finale, questa coda, a me piace, a voi siete molto amanti delle code, questa c'è una piccola coda di qualche secondo, ma c'è una coda anche qua. Poi devi sentire nei live. Ah, bello, beh, come mai questa voglia di coda che a me piace, ricorda certe cose degli anni 60. Perché ci piacciono così tanto che non vorremmo finirla mai la canzone. Ah, ho capito, questo è il motivo. Come l'avete strutturato questo pezzo, che musicalmente è un pezzo accattivante, può essere anche un singolo a qualche momento più contrastato, più forte, più potente. Sto cercando di convincere il resto della band che potrebbe essere un singolo. Ah, quindi secondo te potrebbe essere un singolo questo, diciamo, lì, sì. Come si dice, de gustibus, quando si tratta di cose come la musica, poi è giusto e bello che siano anche gusti personali. Sì, io però sì, sì, lo trovo proprio a me ha funzionato sin dalla, insomma, mi è piaciuta, me la sono ricanticchiata dal primo momento che me la sono sentita, che era ancora voce chitarra, c'era del nostro appena appena iniziata, cioè non aveva ancora gli arrangiamenti, c'era ancora chitarra scordata e voce stonata, cioè. Beh, non l'avevo menzionato per una volta. Beh, si comincia anche così, con la chitarra scordata e la voce stonata. No, no, ma lui, cioè, era capace di farla accordata e intonata, però non ne aveva voglia quel giorno. Allora... Ah, ok, ok. Beh, si può anche fare una canzone cantando in modo stonato, volutamente. Era nel suo periodo punk. Non c'è mica... Tanti altri l'hanno fatta, e anche grandi personaggi l'hanno fatto cantando, stonando, e non è mica... che è una novità. Comunque questa è una canzone d'amore in cui non c'è mai la parola amore. Questa vero? Cosa qua è una cosa che è in tutto il disco, cioè un disco di in tutto il disco 10 brani non c'è la parola amore una volta. E quindi questo è stata anche una scelta artistica, non perché noi siamo contro l'amore, anzi tutt'altro, no? Per dire che alle volte non serve. Questa parola qua è un po' anche forse perché suona bene, no? È un po' usata anche per definire tante cose che poi in realtà forse sembrano quasi uno specchio. Dici amore, poi alla fine è una parola quasi, alle volte sembra un po' svuotata di significato. Invece in questo album qua c'è il tentativo di far passare l'amore attraverso le immagini della vita quotidiana e vedere questo amore qua nelle cose di ogni giorno. E anche in questo caso è una canzone d'amore che può parlare della voglia che uno ha di far bene quando si alza la mattina, oppure anche del rapporto con una persona che si ama. Però che questa, quando no, un rapporto è bello, è vero, non ti va a far stare su una nuvola come le telenovela americane, ma è come se ti desse più gusto alle piccole cose che uno vive nella giornata, anche alle fatiche, no? E quindi è un pezzo che, ecco, vuole parlare in modo profondo dell'amore. E quindi in questo disco, adesso lo nomineremo nel secondo, però come concept anche del primo c'è stato anche questo tentativo artistico che secondo noi è riuscito, perché comunque l'amore è un sentimento che passa molto attraverso questo disco, anche senza averlo mai nominato. Cioè, giustamente tu vuoi ribadire il concetto che anche se non si cita la parola amore, l'amore c'è dappertutto praticamente. Questo sì, perché viviamo anche forse in un'epoca in cui spesso è usato a sproposito. Male, a sproposito, ecco, decisamente a sproposito. Sì. E poi anche insegnano un po' tutte anche tante telenovela, tanti spettacoli per adolescenti. Che, insomma, viene proposto. Qualcuno la chiama la trash, gli spettacoli trash, sì. Praticamente. È come se questo fantomatico amore che ti ubriaca ti togliesse dalla vita. No? Invece, con questo disco, noi vogliamo parlare della vita che poi si vive ogni giorno. Ma un disco. Si vede che musicalmente è un disco accattivante, ma non accattivante nel senso cattivo del termine, perché prende, fatto bene, arrangiato bene, con molta volontà di fare e di suonare. Ribadiamo il vostro concetto, che è fondamentale. La vostra è una band live. Certo, sì, live, sì, acustico, sì. E live elettrico, sì, o presunto, sì, sì. Totale. È una band di persone nate con una voglia incredibile di suonare. Sì, perché l'Emilia porta questo, la gente emiliana ama molto suonare, anche gli altri posti, però gli emiliani hanno questo indole di suonare spesso e volentieri fuori. Ok, suoniamo allora, sono 22:41, è giusto suonare che cosa adesso? Suoniamo una bella ballata a cui siamo molto affezionati, che si chiama Un brindisi a quello che hai, che parla della capacità di scoprire il bello di quello che la vita ti regala, soprattutto in quei momenti in cui picchiano le delusioni, no? E quindi alle volte ti cade un po' tutto quello che tu ti aspettavi dalla vita, che le cose dovevano andare come volevi tu, e ti accorgi, non sei troppo impegnato con i tuoi pensieri di come le cose devono essere, e quando ti decade tutto forse riesci a capire il bello delle cose che hai, no? Che poco prima eri troppo impegnato per accorgertene. Quindi è stato scritto uno di quei momenti anche di abbastanza disperati, no? E di obiettivi crollati, che alle volte sono davvero salutari, perché ti fanno capire davvero quali sono le cose più importanti della vita. Obiettivo mancato, quel fottuto dado truccato che rotola ancora, segnando per ora la solita cifra di chi ti abbandona. E un'altra speranza sfumata, un altro bel sogno smontato, e raccogliere i pezzi sono sempre gli stessi che tutte le volte ti trovi a contare così. Con la faccia nella sabbia, c'è chi dice che è sfortuna, io ti dico guarda, c'è la luna. Un brindisi a quello che hai, anche se non è come vuoi, anche con le ossa fracassate dalle testate. Un brindisi a quello che hai, che non ti serve vincere, ma solo non stancarti mai di vivere quello che hai. E tutto ti sembra crollare, ma non il rumore del mare, e allora ti attacchi ad un'onda il cuore sai che non affonda e senti la vita che sale quando la volevi buttare credendola persa perché era diversa da come l'avevi pensata, ma adesso sei qui e vedi che puoi stare a galla. Non è questione di fortuna, è che sopra il mare c'è la luna. Brindisi a quello che hai, anche se non è come vuoi, anche con le ossa massacrate da chi le ha usate. Brindisi a quello che hai, perché non serve vincere, ma solo non stancarti mai di vivere quello che hai. Tra le ferite che non vuoi c'è un cuore che non molla mai e un sogno che non crolla. Se credi, se credi e preghi. Quello che hai, anche se non è come vuoi, anche con le ossa massacrate dalle testate. Brindisi a quello che hai, che non ti serve vincere, ma solo non stancarti mai di vivere quello che hai. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Abbiamo sentito allora questa ballad. Abbiamo sentito questa ballad. Ok. Ci siamo. È una bella ballad. All'inizio a me è piaciuto molto l'inizio. Questa armonica proprio delicatissima. Proprio al modo americano, sì. All'inizio, proprio questo qualche secondo. Poi chiaramente lo sviluppo della band è stato diverso. Sono intervenuti gli studenti, maestro 1, maestro 2. Sì. No, maestro 2 aveva cominciato già prima con l'arpeggio dell'acustica, poi è arrivato alla tastiera. Sì. E tu hai corollato il discorso con la tua voce molto molto dolce, delicata, poi chiaramente più forte, più potente. Sì, sì, l'armonica tra l'altro è uno strumento che io amo proprio tantissimo, cioè, infatti crea un calore che mi piace tanto. E poi questa canzone, sì, è stata scritta in questa notte, no? In cui tante cose sembravano crollate. No? E che alla fine, davvero, alle volte spesso quando c'è una grande delusione vuol dire che prima a monte c'è forse un valore alle cose dato sbagliato. Ecco, quando alla fine proprio crolla tutto vuol dire che forse su certe cose gli avevi dato più del valore che non dovevano avere. Allora quello è una cosa, è una tentazione quotidiana, ecco, su cui ripetiamo allora il titolo, Marco, visto che ci siamo. Un brindisi a quello che hai. Stiamo sempre parlando con il controtempo, piacevolmente parlando con il controtempo. Sono 22:47, ci stanno raccontando la genesi di questo album, la genesi della loro musica, come è nata, come si è sviluppata, come continuerà sicuramente. Tanti progetti ci saranno, è già qualcosa già nel cassetto pronto sicuramente, secondo me, Marco, e Sonci. Certo. Maestro 1, maestro 2 non dicono niente, anche il nostro tastierista Elvis che ci sta ascoltando. Beh, intanto possiamo dire dove siamo domenica. Diciamo dove siamo domenica, dai. Allora, domenica veniteci a trovare tutti quanti in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia, insieme in centro al Festival Francescano. Fatto un concerto praticamente. È un concerto in una bella piazza e in una bella situazione. Siamo assolutamente esaltati dalla cosa e è un bel weekend di musica, fra l'altro, con altri artisti che si susseguono durante il weekend, Niccolò Fabi, Allevi. Ah, però siete di un certo livello. E voi siete di un certo livello, chiaramente. Siamo contenti per dopo 4 mesi dall'uscita del disco, comunque essere 3 concerti, Niccolò Fabi, Allevi e noi, siamo molto contenti. Decisamente, dovete essere assolutamente contenti, quindi è una bella cosa, vuol dire che il disco sta viaggiando bene. La popolarità sta aumentando, questo è importante, perché vuol dire che la musica è valida, la gente non... E soprattutto se teniamo a sottolineare quello che dicevamo prima, che questa cosa qua non è nata a tavolino da qualcuno che ci ha investito dei soldi per... cioè, voglio dire, è stato proprio, è nato proprio da, da quello che era, no? È una cosa che è cresciuta, è nata dalla vita, è andata avanti e nessuno ci sta regalando niente, no? Perché... ma infatti tuttora ci stiamo godendo i passettini, ecco. Sì. I piccoli passettini, piccoli piccoli, uno dietro l'altro, ecco. Contenti però di ogni piccolo risultato che... beh, giusto, giusto, non è mica semplice. La bellezza di avere un disco fuori, la gente può ammirare un disco fuori, comprare un disco fuori anche fisicamente. Maestro, uno, mi dici come si può comprare materialmente il disco? Qual è il vostro sito, visto che tu sei un esperto di ste robe? Il nostro sito è www.controtempo.info e da lì si può ordinare, giusto? Sì, il manager dice di sì. E poi si trova anche la tastiera, il manager ha sostituito il nostro per semplicità anche su iTunes, e anche su iTunes, anche soltanto il singolo si può acquistare. E anche tutto l'album. Sì, tutto l'album. Fisicamente uno vuole tutto l'album, lo può acquistare. Sì, credo. Esatto, sì. Perché poi anche, anche in alcuni negozi, tra cui Fangareggi a Modena. A Modena. Sì, quelli che sappiamo, perché noi adesso non sappiamo di preciso la distribuzione in tutta Italia dove sei arrivata. Quindi... perché vabbè, qualcuno vuole, spesso volentieri, vuole anche fisicamente il CD. Magari sempre più gente lo volesse, perché è quello che fa andare avanti la musica, no? Anche quella magia di avere un disco, no? Cioè, perché magari non ci si accorge di quanto sacrificio c'è dietro un disco, no? Al di là delle note spese a scrivere le canzoni, poi del tempo a registrarle e dei costi che ci sono, perché vuol dire per ascoltare le canzoni come le sentiamo alla radio servono dei macchinari che costano tanti soldi, e voglio dire, oggi siamo arrivati a un livello che c'è una cioè deve essere, la gente vuole ascoltare al massimo livello, però non si vuole spendere per comprare, quindi diventa una cosa che diventa difficile far continuare a esistere. È la via di internet, è la via delle specializzazioni, che porta delle cose positive ma porta anche delle cose negative. C'è una cosa positiva che ha portato al mestiere musicista, è quello che adesso il musicista è costretto a suonare, e che è quello che a noi piace fare, perché insomma per tanti anni è sembrato a un certo punto che il grande musicista deve essere quello che si fa vedere una volta ogni tanto per un grande evento mega galattico. Invece secondo noi la pensiamo un po' diversa, che ci piace andare tante situazioni grandi, abbiamo fatto quest'estate, ma abbiamo fatto anche tante situazioni piccole piccole, cioè nel senso in cui vai a incontrare la gente, che fai il mestiere che è quello del musicista, che è quello di andare a suonare e a incontrare la gente, che alle volte hai la fortuna di farlo su un palco di piazza come facciamo domenica, come abbiamo fatto con tante volte con tour di radio, ma però è bello anche quando sei con 100-200 persone che suoni in acustico oppure anche in elettrico ma in piccolo, è una magia bella anche quella. E quindi è quello che poi abbiamo fatto anche nel Sanremo Controtempo, che come è andato il Sanremo Controtempo? Raccontami un pochettino, dai. Sì, senza sbilanciarci su alcuni motivi che ci hanno spinto a fare queste cose, però li abbiamo anticipati prima, su come va il discorso degli spazi dati agli artisti emergenti, spesso non proprio trasparenti. Però noi siamo stati contenti di portare, di far partire. Noi dovevamo uscire a maggio, Sanremo era febbraio, e abbiamo voluto far portare la nostra musica sulla strada, nel senso che noi eravamo stati invitati da cose ufficiali come Casa Sanremo con Radio Italia, come alcuni concerti da fare al Palafiori, così. Però abbiamo voluto fare tre concerti, uno davanti all'Ariston con Strumenti di Fortuna, uno su un furgone, bello, proprio alla Rock and Roll, e un altro, l'ultimo grosso, sul balcone di fronte all'Ariston prima della finale, in cui c'erano tutte le televisioni e la gente ha saltato con noi. È stata una cosa da raccontare, su YouTube c'è il video, per dare questo messaggio un po', che è anche quello del nostro disco, In Tutti i Giorni Eroi, che è bello anche fare scendere la musica dal piedistallo e farla suonare nei luoghi dove passa la vita quotidiana. Eh sì, perché la musica è di tutti, non è solo di un'elite, quello invece, importante. Invece spesso sembra sembra il contrario, che sia solo di un'elite e basta. Questo non è proprio un bel messaggio, il messaggio è negativo secondo me. Ok, benissimo, sono le 22:52, adesso dopo alle 23, caro manager, tu non lo sai ma te lo dico io, abbiamo un piccolo giochetto, i dischi da portare su un'isola deserta, ma lo facciamo alle 22, alle 23 precise. Prima sentiamo un pezzo da disco. Che traccia avete scelto, vi ricordate? Caro Massimiliano, che traccia era? Eroi. Ah, Eroi, per dirsi, è la traccia numero? Numero 6. Numero 6, la sentiamo assieme allora. Sento di esserci come un bambino che scopre il mondo. Oggi c'è un tempo da scrivere dentro a una storia che ha scelto me. E allora butto gli schemi standardizzati per vivere comodi e rassegnati, io li butto con vuoto a perdere, prima che quel vuoto riempia me. Favola nella realtà che spinge ogni passo più in là, io la vivo e vivo la mia storia. Voglia di credere negli eroi, in gente che non si arrende mai, e voglia di esserci anch'io da adesso in poi, in tutti i giorni eroi, e in tutti i giorni. Ogni vita è lasciata da scrivere, tra coraggio e fatica da vivere, e come un bambino che scopre il mondo, io riscopro nuovo ogni attimo di questa nuova realtà che spinge i miei passi più in là. Io la vivo e vivo in questa storia. Voglia di credere negli eroi, in gente che non si arrende mai, e voglia di esserci anch'io da adesso in poi. E c'è la voglia di credere negli eroi, dentro ogni vita una favola, dove ogni giorno è l'impresa che non sai. Oggi è tempo per gli eroi. E niente fenomeni, ma giorno per giorno uomini, nati per vivere come missione ogni momento. Voglia di essere degli eroi, di essere chi non si arrende mai, e voglia di un mondo diverso, grazie a Dio ci sono ancora eroi. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eh sì, ci siamo, adesso ci siamo, facciamo il giochetto. Lo anticipiamo di qualche minuto, che siamo in tanti stasera, quindi ci vuole un po' di tempo. Ma un giochetto molto semplice. I tre dischi, stasera sono buono, erano cinque di soli. I tre dischi da portare su un'isola deserta, non l'isola dei famosi, dell'avventura che adesso è passata a Sky, non c'entra assolutamente niente. Ma i dischi di Rock Wave, assolutamente una regola fondamentale di questo programma: non si può copiare. Maestro, mi dispiace, se vuoi cominciare, te sei avvantaggiato. Non so se gli altri sono d'accordo. Ma sì, allora... vai, maestro, davanti al microfono, vai. Il nostro batterista, praticamente. Lo chiamo maestro, così per... Direi un disco dei Radiohead, Ok Computer. Come mai hai scelto i Radiohead e Ok Computer? L'apoteosi anche dal punto di vista discografico, dal punto di vista di successo dei Radiohead. Ma e non ricordo... il disco dopo, che sono più sperimentali. Mi ricordo che me lo fece conoscere un mio compagno delle superiori. E, che avevo 14 anni e rimasi molto colpito perché fino ad allora non avevo mai sentito comunque delle sonorità così sperimentali, così raffinate come quella di questo, quel disco, che mi ha emozionato moltissimo. Quindi hai scelto quello per molto tempo, ancora adesso. Ma Thom Yorke, ragazzi, è Thom Yorke, quindi insomma, esatto, è una bestia nel senso positivo del termine, un grandissimo regista. Dopo, secondo, caro? Poi direi un altro disco molto bello, Aerial Boundaries di Michael Hedges. Ah, hai scelto una cosa molto particolare, un po' sofisticato. Lui è un chitarrista che comunque ha portato un certo modo di suonare, esatto. Cioè, e l'ha resa molto popolare. Certo. E poi direi un altro disco, vediamo... quello di Massimo Varini. Non so, ma mi fai stare bene di Viaggio Antonacci. Accediamo alla musica italiana. Facciamo due stranieri e uno italiano per ciascuno. Vabbè, le scelte sono tutte giuste e non si possono criticare. Hai scelto per amore della musica italiana. Vai, tocca a te, Marco. Facciamo il giro così. Allora, io qua sono quello più italiano. Sei già sul Trespolo stasera, in ogni caso, quindi ti vedono meglio. Sono quello più italiano di tutti. Io ho sempre amato tantissimo la musica italiana. Allora, in particolare sono stato sempre affezionato a Ligabue, ecco, quindi ad esempio... Boliga dalle vostre parti, assolutamente. Sì, sì, siamo proprio a metà tra Ligabue e Vasco. Ecco, solo che scegliere... Poi magari scelgo la raccolta. Beh, facciamo la raccolta. Secondo che, anche se, non so, Buon Compleanno Elvis è un album molto rock, che è quello che davvero mi piace. Comunque, mi piacciono tutti, davvero. Beh, il successo di Ligabue quest'anno è incredibile, visto che è 10 album nei primi 100, da un sacco di tempo, quindi insomma è una cosa in Italia. Ma tutti gli album, praticamente gli album di Ligabue sono quasi tutti in classifica. Ok. Ecco, senti. Ecco, vedi, il buon Michele tira sempre fuori le cose giuste. Comunque, anche quest'album qua di Miss Mondo, bellissimo. Certo. Comunque, niente, poi nel rock italiano, Litfiba e Negrita, poi Vasco. Comunque, se vogliamo scegliere due stranieri, io sceglierei sempre altre due raccolte. Così sono sull'Isola Deserta. Certo. Una è Crossroads di Bon Jovi. Ah, come mai Bon Jovi hai scelto Bon Jovi? Come mai? Perché ti piace l'impatto di Bon Jovi? Come sì, quel modo di suonare sull'americano lì, un bel rock anche quello lì. E poi gli Aerosmith, sempre. I vecchi Aerosmith, quelli non muoiono mai. Prendo l'antologia finale degli Aerosmith, che è doppio CD, con Crane, tutti quelli. Tutti i classici loro. Sì, sì. Quanti anche anni? Se lascerei fuori Bob Dylan, che mi dispiace molto. E come mai lasci fuori Bob Dylan, che ha fatto sia acustico sia l'elettrico? Non so, magari me ne porto 4. Beh, Dylan è un genio, cioè un mito assoluto, un'icona per tutti, compresi gli Aerosmith e anche loro, perché la svolta elettrica di Dylan ha fatto svoltare elettricamente a tanta gente. Il nostro grande tastierista. Dunque, allora, innanzitutto Keith Jarrett, Facing You. Ma andiamo sul difficile. Facing You, tra l'altro, ho preso l'ACM, rimesso in vendita il vinile, ho comprato il vinile a distanza, tipo 30 anni più o meno dall'uscita. Keith Jarrett, ovviamente, io mi ero la prima volta che avevo sentito qualcosa era il famoso concert, sì, quello comprato che da tutti quanti. Esatto, che è un po' quello un po' che è diventato un po' più commerciale, sì, perché poi è stato utilizzato in realtà non per colpa di Keith Jarrett. No, esattamente. E lì, tra l'altro, mi ricordo, mi ha colpito un sacco, a me piace. Come ripeto, mi piace molto il suono anche di quell'album. E lui in realtà si era lamentato, aveva dovuto suonare su un pianoforte che per lui aveva un suono assolutamente bruttissimo. Lui è un perfezionista, e tirò fuori in un'improvvisazione totale una specie di capolavoro. Sì, ma assolutamente. Il disco il suo più venduto nella storia della sua discografia, è uno dei più venduti della musica jazz, comprato da tutti, anche chi il jazz non lo ama fortissimamente, che è già un musicista molto particolare. Determinate cose. Vai. Il secondo è per anche legato un po' a quello che ascoltavo da piccolo, quindi si capisco tante cose. Ma sei ancora giovane. It's a Kind of Magic dei Queen, perché è legato a è un applauso del nostro bassista. Che è legato anche al fatto che fosse la colonna sonora del film Highlander. Certo. E quindi io sono molto appassionato di colonne sonore. Questo mi permette di unire sia la passione delle colonne sonore, citando questo citando album, Queen, che citando ovviamente un album insomma, bellissimo di un gruppo grandissimo. E dunque l'ultimo avrei detto Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn, di cui ascoltai la musicassetta però, a casa all'epoca, alle medie praticamente. Esattamente. E mi era venuto in mente anche un altro album che è proprio... Dimmi. Ecco, questa è una gran canzone. Eccolo qua. Esatto. Un altro album che mi era venuto in mente era Oltre di Claudio Baglioni, perché mia madre ascoltava Claudio Baglioni e Baglioni, classico, piccolo grande amore. Invece Oltre secondo me Oltre fece un piccolo gesto di coraggio Baglioni rispetto alla sua carriera, con una certa ricerca, sì, e mi colpì veramente molto. Hai ragione, perché il disco di Oltre non è un disco semplice di Baglioni, non è il disco delle solite melodie di Baglioni. Assolutamente ha fatto delle ricerche, giustamente, come tu hai detto. Sono perfettamente d'accordo con te. Il nostro manager, puoi andare, vieni avanti, Damiano, poi il co-manager che è qui di seduto. Facciamo prima il nostro bassista, sì, dopo parliamo con Damiano. Perché ci sta ancora pensando. Mi sta ancora pensando. Allora, io in quanto vecchietto della band, un po' diciamo, me la sono... Vuoi dire? diciamo, me la sono un po' girata fra anni 80 e anni 90 come ascolti, anche se, cioè, tuttora ci sono cose. Vedi Viva la Vida di Coldplay. Ti piace Viva la Vida? Cosa ne pensi dell'ultimo disco che verrà fuori fra qualche settimana? L'hai sentito in anteprima qualcosa, il singolo? Ho sentito solamente il singolo. Cosa ne pensi? Non sono ancora sicuro che mi convinca quanto mi ha convinto Viva la Vida, l'album precedente. Non so se sia ancora prodotto Brian Eno, mi pare di sì, però. La manona di Brian Eno comunque in qualche modo si fa sentire. Allora vuol dire che ancora Brian Eno c'è ancora dentro. Comunque. Dicevo, no, proprio prenderne tre è difficile, proprio perché lo so. Però provandoci, direi direttamente dai miei ascolti teenageriali degli anni 90, il doppio CD di Melancholy degli Smashing Pumpkins. Che bello, quello è bellissimo. Quello mi chiede, non so se riesci a trovare, ma proviamo a cercarlo. Quello è bellissimo. E dopodiché ho recuperato e allargato il più possibile i miei ascolti di bambino degli anni 80 e mi sono appassionato di new wave, pop elettronico, bravissimo. Bravo Michele, bravo Michele. Per citarne uno, così, che mi piace veramente dalla prima all'ultima traccia, mi fa impazzire, lo ascolto quando sono triste e anche quando sono allegro. Ed è The Queen is Dead degli Smiths. Devo alzarmi dalla sedia, allora, praticamente. Ragazzi, Morrissey e Marr sono due fenomeni assoluti, veramente. E poi invece, siccome però per la maggior parte mi ascolti, anche quando nel mio piccolo scrivo qualche canzoncina, per lo più sono in inglese, i miei ascolti sono per lo più anglofoni. E, per provare a citarne un italiano che mi faceva impazzire da bimbo e che poi, del quale poi sono andato a cercare gli album, direi Rockmantico di Alberto Camerini. Ah, che bello, Michele, quello dobbiamo cercarlo, Alberto Camerini. Dovrebbe esserci, che bravo è Alberto Camerini. Adesso è un po' stato dimenticato. Invece dobbiamo citare una cosa. Ha avuto un po' una parabola discendente. Sì, dobbiamo citare una cosa. L'intelligenza milanese era formata da Camerini e da Finardi. Il primo disco di Finardi, il secondo disco di Finardi, Sugo. La chitarra strepitosa di Sugo è di Camerini, ragazzi. Sì, sì, lui è un grande chitarrista, però poi quando si diede, diciamo, all'elettronica, tra virgolette, di consumo, in realtà c'è una cosa così, la puoi ancora mettere in discoteca ed è targata 1981, credo. Ah, bellissimo. Camerini è grandissimo, un grandissimo musicista. E sotto che i nostri due manager, il primo manager è qui davanti, vai Damiano. Ma io ho pensato un po' alla mia crescita musicale, cioè un primo disco che mi viene in mente è quello che, con cui sono cresciuto, che è una raccolta di tutti i successi dei New Trolls. Ah, che bello i New Trolls. Visto che mio papà in macchina mi sparava sempre una miniera Irish e tantissime canzoni che mi hanno accompagnato nel Di Paolo, che voce ha Mico Di Paolo? È una voce unica, non c'è una voce unica, che... nonostante purtroppo ha avuto un incidente grave, però la voce è rimasta, la bellezza della sua voce, la potenza della sua voce. Sì. New Trolls, ragazzi, New Trolls. Sì, tonalità che probabilmente raggiunge solo lui. Sì, assolutamente. Boh, Senza Orario, Senza Bandiera è un cult disco che ha fatto epoca, non solo perché c'era De André, c'erano gli arrangiamenti, i reverberi, c'erano loro, assolutamente. Certo. Bellissimo, bravissimo. Poi? E poi dopo alle medie sono un po' passato ad ascolti un pochettino più ruvidi e anche qui sceglierei un'antologia dei Ramones. Ah, che bello i Ramones. Così con l'antologia il padre di tutti i punkettari sì, esistenti. Non c'è, senza i Ramones, senza il punk non sarebbe esistito senza i Ramones. Ah beh, certo, sì, loro sono stati 2 minuti che... 14, 2 minuti 15, ma danno tutto. One, two, three, four e via. Esatto, incredibili i Ramones. E poi per ultimo vado un po' sul... Ah, eccoli qua i Ramones. Bravo Michele, bravo. No, per ultimo vado un po' su una band un pochettino più recente che fino agli anni 90 mi ha un po'... Li conosco solo io qua dentro probabilmente, però sono i The Get Up Kids con un disco che si intitola Something to Write Home About, che mi ha veramente cambiato... Questo mi hai bucato, non li conosco. Ma sono un gruppo che alla fine sono riusciti a creare delle sonorità nuove partendo da quello che era il punk di una volta, introducendo una melodia un attimino più pop, parlando di... problematiche adolescenziali e tutte queste cose qui che mi riempivano ai tempi e scelgo questo anche se non è un disco famoso. Nel suo genere ha fatto la sua storia. Ha fatto la sua storia. Ascolta Damiano, abbiamo fatto un errore tutte e due perché qua abbiamo detto anche me, mi rappresenta molto la musica rock, abbiamo detto dischi rock, però sai che io e te siamo cresciuti tanto con quella canzone degli 883. Ah beh, che certo. Anche, certo. Che anche se non sono quello. Che non sono rock, però c'è una genialità nei testi, nel sapere essere stati primi a utilizzare un linguaggio, cavolo, che parla la vita quotidiana e poi se le arrangi in un certo modo legnano quelle canzoni. Ah beh. cavolo, grande Max. Tocca a te adesso, Michele, che ha dato una mano morale alla band, possiamo dire questo. Eccomi qua, io vado un po' più sul classico perché vabbè, sono un po' qualche annetto in più di loro, però il primo disco sicuramente Tubular Bells di Mike Oldfield. Ah, che bello quello là, perché le campane tubolari di Mike Oldfield. Sì, perché comunque ha segnato una svolta e ha fatto anche la fortuna della Virgin. Certo, è stata creata la Virgin grazie appunto a Mike Oldfield e alle vendite strepitose di questo disco. Esatto, e poi un disco che ascolto puntualmente almeno due volte al mese. Se non di più, Dark Side of the Moon di Pink Floyd. Come mai senti due volte al mese un disco che ha tanti anni, che ha venduto 60 milioni di copie, che è un disco epocale? Perché comunque è un disco che registrato nel 73, perché è uscito il 23 marzo del 73, se non sbaglio. È stato ristampato, non so, adesso esce un mega cofanetto, sì, esatto. Però a suoni attuali, canzoni attuali, e c'è tutto dentro, c'è il rock, c'è il pop, c'è la sinfonia, c'è la melodia, c'è tutto. Quindi un disco che non ha tempo. No, assolutamente. Un grande amante di Pink, e qui Michele dietro il vetro. Siamo due Michele, quindi no, esatto. No, è un disco. E poi come ultima scelta, perché comunque sono nato negli anni 80, è un disco che ho comprato in cassetta ancora all'epoca e con i primi soldini che mi dava la mamma appunto per... ed è Forever Young degli Alphaville, perché comunque è un po' un disco un po' che tanti non ricordano. Sì, si ricorda i singoli Big Japan, Forever Young, però secondo me è un disco vario perché comunque unisce, ecco, perfetto, alla grande. Eccomi qua. Alla grande, Michele, sei un grande. E c'era addirittura musica elettronica, però mischiata anche la classica, perché in Sounds Like a Melody c'è la filarmonica di Berlino che suona. Quindi alla fine è un disco epocale che riascolto volentieri. Che viene sempre fuori sempre ogni stagione, sì, sì, sì, sì. O quasi. Ecco, negli anni 80 ha lasciato il segno, come vari Ultravox, certo, e discorrendo. Io amo praticamente gli anni 80 e gli Ultravox, Vienna e altre cose meravigliose. Che adesso siamo anche riuniti. Sì, adesso sono riuniti, non senza il leader, però che cioè, sembra uno dei leader fondatori, ma chiaramente sono riuniti. Ecco, sì, beh, nella formazione quella di Mijiur. Sì, esattamente. Sì. Prima con Hiroshima, con John Fox e via discorrendo. Ecco. Comunque tuttora trovi anche in classifica americana, europea, così ogni mese trovi qualche pezzo che rielabora o anche semplicemente prende, sì, parti di questi pezzi, perché hanno comunque delle melodie incredibili, certo, e degli, certo, arrangiamenti incredibili. La rielaborazione di certi pezzi dovuti ai DJ di adesso, americani, spesso volentieri. Ce ne sono tantissimi che rialbano pezzi di quel momento. E proprio nelle classifiche americane di Billboard ho visto che sono ritornati alla grande Journey. I Journey è un gruppo decisamente storico, con un vocal espreso da YouTube, da una cover band, Arnel Pineda, che comunque è un clone di Steve Perry, e quindi Dancing with Tears in My Eyes 84 alla grande. L'album Lament, se non sbaglio. Lament, dovrebbe essere proprio bene. Ok, abbiamo finito questo bel giro di danza sui migliori dischi per noi da portare su un'isola deserta. Adesso abbiamo ancora tempo, abbiamo molto tempo, ma tempo assoluto per fare due live, uno dietro l'altro, non uno dietro l'altro, uno, poi parliamo, poi ne facciamo un altro. Che pezzi volete cantare, suonare adesso in questo momento? E stavolta, visto che ci sta pensando, te lo dice Spaggio. Allora, facciamo, lo scopriamo anche noi. Facciamo l'idea di fare Buon Viaggio, che è una canzone che è una lettera ad un amico con il quale si è cresciuto insieme, e ci si augura che le cose belle che ci si augurava da ragazzi rimangano sempre vissute adesso, no? E poi dopo... Beh no, adesso ne parliamo dopo la seconda. Sì, dopo la seconda. Sentiamo prima questa. Ti ricordi quelle estati lì, con il motorino a prenderci, le nostre giornate in fuga di vacanze gas? Ti ricordi quelle corse lì, dietro ad un pallone un sogno che dentro al tuo cortile diventava Champions League? Ti ricordi quella tipa che guardava sempre tutti tranne me, ma che ti dicevo sai cos'è? Sono sicuro è lei che sposerò, è lei che sposerò. Ti ricordi quelle liti lì, quante porte chiuse un po' così, con un gran rumore e un dito per mandarti là. Ti ti ricordi quella volta che abbiamo provato a fare il nostro film con tanto di copione attori come a Hollywood? Ti ricordi quella tipa che guardava sempre tutti tranne te, ma che mi dicevi sai cos'è? Sono sicuro è lei che sposerò. Buon viaggio amico, che il viaggio non è mai finito. Caro amico, affrontalo così. Buon viaggio amico, che la vita è un po' quel gioco che hai imparato crescendo insieme a me. Poi ti ricordi quelle notti lì, con le stelle in testa ed un falò, e sempre con quella chitarra che stonava un po'. Ti ricordi quelle volte che parlavamo anche fino alle tre, e poi la mattina dopo i primi caffè. Ti ricordi quelle tipe che guardavano sempre tutti tranne noi, ma che dicevamo cambierà, ci scommetto tutto quel che vuoi. Buon viaggio amico, che il viaggio non è mai finito. Caro amico, affrontalo così. Buon viaggio amico, che la vita è un po' quel gioco immaginato insieme. Allora avanti amico, in questo viaggio mai finito, io ti dico continualo così. Buon viaggio amico, che la vita è sempre il gioco che hai imparato, e la vita è l'avventura che hai cercato crescendo insieme a me. Ti ricordi quelle lacrime, a volte per capricci e a volte no, a volte erano già da grandi e ci crescevano. Ti ricordi quei ricordi qui, che un giorno saranno storie che si potranno raccontare a chi crescerà. Perché tu hai sposato quella che guardava sempre tutti tranne te, mentre per adesso io son qui, ma vedrai che me la caverò. Buon viaggio amico, che la vita è l'avventura che hai cercato. Buon viaggio amico, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito Buon Viaggio, un bello arrangiamento, delicato, come si sonviene. Il maestro ha colorato leggermente con le percussioni, poi Andrea ha giocato con le tastiere e il nostro bassista, ok, maestro numero due, ha finito con la chitarra acustica. Tu suoni il basso, ma stasera suoni benissimo la chitarra. E l'armonica, Marco anche sta provando l'armonica per il prossimo pezzo. Buon viaggio è un buon pezzo, un pezzo molto accattivante, molto d'atmosfera, possiamo dire qui. Il pezzo del ricordo, il buon viaggio. Sì. Il viaggio è la tipologia della band rock, c'è poco da fare. Sì, è anche la copertina del nostro disco. È anche la copertina del vostro disco. E tutte le foto. La foto chi l'ha fatta la copertina? È la foto praticamente. Sì, l'abbiamo pensata proprio noi e poi dopo è venuto un fotografo bravissimo, Andrea Losi, no, da Milano. Lo salutiamo, se ci sente. E niente, noi volevamo fare che questo disco è un viaggio, no? E quindi il discorso, la dimensione del cammino era secondo noi la migliore, che poteva rappresentare tutto quello che c'era stato prima del disco, che aveva portato il disco a nascere, e tutto quello che dal disco in poi sarà, è sempre, no, questo cammino, questi piccoli passi. Certo, tu avevi accennato che può essere anche definito un concept album il vostro. a larghi, sì, a grandi linee, perché certo, non si parla di amore, come non si, proprio, non si cita la parola amore, però l'amore è dappertutto, anche se il viaggio è dappertutto, quindi certo, può essere una congiunzione delle due cose. Sì, il concetto del disco è In tutti i giorni eroi, quindi che si titola In tutti i giorni eroi, vuole porre l'accento sulla vita quotidiana. Esattamente, no? Sulla quotidianità. Perché spesso si tende sempre, no, a cercare l'eroe in quello che arriva prima, in quello che è più famoso degli altri, in quello che guadagna più degli altri, in quello che ha la fortuna di vivere per una volta nella vita un'impresa straordinaria. E invece così si perde la capacità invece di guardare quello che ognuno di noi, con la sua unicità, ogni persona è unica. Oggi questo concetto è un po' perso, no? Il vedere il valore unico che sta dietro ogni persona, che ogni mattina, attraverso le fatiche che la vita riserva a ognuno di noi, però c'è possibilità di costruire tanto bello anche dove intorno c'è il brutto, no? Certo, ci può essere eroi ogni mattina praticamente. Certo. Ed è questo, c'è quella bellezza, no? Di un bambino che sogna l'impresa di diventare grande, da grande farò, e di mantenere questo entusiasmo di voler fare, una volta che uno è diventato grande e può fare, perché spesso cosa succede? Che nel crescere poi si perde questa spinta di entusiasmo del bambino, di cui parlavamo prima, insomma. Bene, la versione ottima, sono stato molto soddisfatto di averla sentita, chiaramente live, acustica, qui a Blu Radio Veneto, per noi, per Rock Wave. Ok, un altro pezzo abbiamo deciso, perché dobbiamo sentire la musica di Controtempo, assolutamente live. Cosa, sì, allora, Marco? Visto che quest'estate si è sentito tanto il nostro singolo come Bud Spencer e Terence Hill, noi vorremmo sfruttare l'occasione di stasera per presentare il riarrangiamento acustico del brano come Bud Spencer e Terence Hill, che insomma a noi piace molto. L'avete fatto per Rock Wave oppure l'avete già fatto in altre occasioni? Ce l'avamo in cantiere, ma questa è una buona occasione per presentarlo. Ok, benissimo. Prego. È quasi una storia imparata a memoria. Due sogni, un cassetto e due gambe per rincorrerli un po'. È come dentro ad una storia che ti riempie l'aria, che dice che noi siamo vivi così, dice che noi corriamo ma non scappiamo. Noi siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill, con la camicia o in mezzo ai guai, ti salvi come puoi. E siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill. La vita è strana, sì, però ce la giochiamo noi. Continua la storia, con due vite, un sogno e una realtà, con due facce collaudate o consumate, dipende come le hai lasciate vivere, se le lasciate sorridere, in mille avventure fatte così, e in mille altre ancora, finché possiamo. Noi siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill. Un po' ci nasce, un po' lo fai, ma poi ci credi e vai. E siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill. La coppia è strana, sì, però non la dividi mai. Natale, con o senza la camicia, appari e dispari, la vita gioca quando vuoi. Noi siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill, con la camicia o in mezzo ai guai, per non fermarsi mai. Ancora un po' poi ci arrabbiamo, però poi tanto rigiochiamo. Ma sì, però ce la giochiamo noi. La vita è strana, sì, però ce la giochiamo noi. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, benissimo. Abbiamo sentito questo pezzo, questa rivisitazione in chiave acustica del pezzo, del singolo praticamente, e l'atmosfera, l'armonica che ha suonato Marco all'inizio mi ricordava le Praterie di Trinità praticamente. Ah, sì, c'è poco sì, da sì. fare. Le Praterie di Trinità, i due che cavalcavano, che sempre Trinità è stato una serie di film che hanno lanciato proprio il western all'italiana, c'è poco da fare. C'era quello di Sergio Leone, siamo d'accordo. Certo, sì. Però c'era anche quello di Terence Hill e Bud Spencer. Bellissimo il pezzo di rivisitazione acustica, fatta, non dico quasi esclusivamente però qui, ma quasi. Sì, sì, alla sì. fine è arrivata. È la prima volta, è una cosa molto bella, molto positiva. Ringraziamo e salutiamo anche il nostro direttore artistico, Alberto Prisco, e grazie a lui i live sono stati fatti, si faranno chiaramente a Rockwave. E salutiamo anche la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia che ci seguono sempre. Ok, bellissima, sono stato molto contento di aver sentito il singolo, e anche in versione acustica il singolo funzionava lo stesso, perché è la melodia che conta, la cattivante sì. melodia che trascina il pezzo. Il nostro manager, nonché Damiano, vi ricordava una data importante, il 2 ottobre cosa suonate qui a Padova, dove? A Prato, Prato della Valle. Siamo, sì, con Radio Company Contatto, è una data che è stata posticipata per problemi di maltempo, ecco, doveva esserci il 5 settembre, no? E invece saremo qua il 2 ottobre. In Prato della Valle praticamente sì, suonerate. Dalle 15 alle 18 sarà l'evento, ecco, noi saremo ospiti. E suonerete i vostri pezzi praticamente, bene, una cosa positiva, quindi quando qualcuno sicuramente, chi ci sta ascoltando, può fare un giretto fino al Prato qui vicino e poi venite ad ascoltare. Benissimo, sono le 23:25 e abbiamo cosa una mezz'oretta per parlare insieme con voi, una mezz'oretta piacevole. Abbiamo parlato delle vostre vicende sonore, abbiamo parlato della difficoltà ed anche del piacere di fare un disco. Per fare un disco è anche un piacere, non c'è solo la difficoltà. Ah sì, soprattutto. Il piacere anche per il manager, cosa dire. Sì, È bello, sì, effettivamente fare un disco è bello, è positivo, perché è un raggiungimento di un obiettivo dopo tanti anni, cosa dite Marco? Ah certo, come fissare su qualcosa che rimane, insomma tanta vita, ecco, perché dietro ogni canzone c'è davvero tanta vita. Esatto. Vissuta e poi messa attraverso delle note. E chi è stato il pezzo più arduo da incidere secondo voi, dei pezzi del disco? Ci sono state delle difficoltà, ci sono state delle discussioni fra di voi, io l'arrangiamento lo voglio fare così, non l'arrangiamento lo voglio fare in un'altra maniera, democraticamente parlando sempre. Il maestro cosa dice? Non dice mica niente il maestro. Il maestro della... No, i due produttori hanno fatto un ottimo lavoro, però quello che ha dato più lavorazione è stato come Bud Spencer e Terence Hill, appunto. Ah, quello ha dato l'input. Perché comunque era quello da cui partiva tutto, quindi bisognava trovare la strada attraverso quel pezzo lì, no? Poi gli altri sono venuti di conseguenza. L'avete tenuto a freno Elvis, che adesso sta in montagna, che ci sente probabilmente via internet, perché è un chitarrista, lui vuole degenerare musicalmente parlando. È un chitarrista verace, cioè l'avete tenuto un po' a freno. Se gli dai carta bianca e poi se lo metti anche nella stessa stanza col maestro, sai dove parti, ma non dove. Ma batterista come va d'accordo con chi? Chitarrista, diglielo come vai d'accordo. Come vai d'accordo con Elvis? D'accordissimo, perché poi a lui piace molto la sonorità funk, è molto funkeggiante su questo. Ma non te lo concedono mica la funky qua. Qui non ce lo concedono, ma comunque a groove ci intendiamo molto bene. È quello importante. Però in prossimo futuro ci sarà qualche apertura o no? Beh no, già no. Magari facciamo una canzone che si chiama Cupido smarrito una freccia, che ogni tanto la funkeggiamo un po'. Ecco, vedi, una piccola apertura c'è sicura, perché la musica davvero è ampia, la musica è libera, ci devono essere la libertà di sperimentare nel dovuto rispetto ai canoni, chiaramente, non è così? Sì, infatti, ma comunque in molti punti riusciamo a esprimerci secondo le nostre personalità di ognuno di noi, penso che tutti riusciamo ad esprimerci anche personalmente in questo gruppo. E il live, cioè, io voglio sapere il live dal punto di vista elettrico, come lo manovrate? Lo pompate, cioè date un vigore notevole, oppure rimanete sempre sui ritmi non totalmente ossessivi? È difficile, perché per natura noi siamo ossessivi. Ah, siete ossessivi per natura. Cioè, la gente è affetta anche da autismo. non mi pare ipnotici assolutamente, non siete rumoristi assolutamente. No, però anche se, no, anche se quando ci piace avere provare ad avere sempre grinta e simpatica verve. Il nostro tastierista che è stato, sei stato l'ultimo ad entrare nella band. Sì, è stato l'ultimo. Come ti sei trovato? Allora, innanzitutto è stata, adesso io non vorrei, però è stata veramente un'emozione, perché ci sono, credo, persone di talento. Io non avevo suonato tanto insieme ad altri, nel senso che avevo suonai da solo, no, suonavo da solo, avevo avuto un'esperienza in un ensemble che faceva tipo big band, quindi avevo le sezioni di fiati, quindi era un po' diverso come genere. Ho trovato delle persone, vabbè, tutto molto accoglienti, poi Marco lo conosco da instabili. Sì, un po' instabili, nel senso, prima esatto, la prima tentativo quello di fuggire immediatamente sala prove, però poi quando ci rientri, diciamo che ti rendi conto che hai di fianco dei una musicisti cosa molto validi. Ti quindi... voglio chiedere, come vi trovate? Avete una sala prove vostra dove provate, non so, una volta alla settimana, due volte alla settimana? Com'è il discorso? Sì, ci tenevo a sottolineare che lui ha contribuito a aumentare l'instabilità psicologica. Ho capito. Beh, certo, No, noi abbiamo la fortuna di avere a casa mia una vecchia cantina che è stata rimodificata e messa a posto. C'è anche del vino dentro, no? È stato tutto bevuto dal maestro. bene. Ok. Praticamente alla fine ha deciso di andare a vivere lì nella cantina, tutto il resto è sala prova. Cioè, quando lui ha finito il vino nella cantina abbiamo fatto la sala. Ho capito. No, era proprio, mi ricordo quando ero piccolo entravo, c'era proprio, sì, dove si faceva proprio il vino, c'era anche il tornio antico. Ecco. E adesso invece è diventato proprio da anni bello, è stato rivestito, una sala prova, e quindi c'è la fortuna di averla sempre a disposizione quando si vuole. Poi io abito in un paese di campagna, quindi uno dei paesi più belli del mondo, che si chiama San Vito. È un passo da Modena, ma è bello indipendente, quindi possiamo anche suonare senza disturbare. Quindi l'acusticità è buona su questo studio, precisamente. Infatti, sì. Ed è importante questo. Avere un luogo in cui potersi esprimere senza dover sempre andare è una gran fortuna, insomma. Ti dico una cosa, che spesso e volentieri tante band che sono venute qua sono anche quelli di ieri sera che sono venuti dalla Liguria, dalla Toscana, dalla Versilia. Anche loro si trovavano in un posto, in un bosco, vicino a un bosco dove hanno suonato, dove hanno creato il loro disco. Un posto, non dico abbastanza isolato, con la natura davanti, e questo è importante secondo me per fare un disco. Sì, io penso, per me è decisivo il rapporto con la natura, a parte che sempre nelle canzoni, poi spesso quando devo scrivere una canzone prendo su e vado in qualche bosco, in qualche fiume, cioè è una cosa che non so, c'è una magia. È fondamentale, no? C'è poco da fare, è fondamentale. La natura dà molti spunti e dà anche molti appoggi dal punto di vista proprio creativo, secondo me. Sì. Bene, 23:31, non so, abbiamo in scaletta un altro pezzo da disco oppure no? Sì, il nostro produttore dice di sì, che cos'è? Ti ricordi? È uno bello schitarrato che è ora di fare rock and roll, che magari non potevamo riprodurre a dovere senza Elvis, e quindi siamo contenti di farvelo. Oh, cosa vorresti dire con questo? No, non perché c'è Pat, ma perché c'è chitarra elettrica, distorsioni. Adesso lo sentiamo, poi noi parliamo anche senza Elvis. Infatti. Dentro una discoteca, la notte segue il viaggio della sua cometa, la luna tiene il tempo sul ritmo che le dai, che porta il cuore a galla. Ti han detto di ballare un sogno commerciale, ma quando vuoi sognare non ti basta comprare, se sogni vuoi gridare come sei fatto te. E la vita chiede il ritmo giusto, è ora di fare rock and roll, è ora di fare rock and roll, è ora di saltarci dentro finché il tempo c'è, na na na. È ora di fare rock and roll, è ora di fare rock and roll, è ora di guardarsi dentro per trovare un sound. L'infinito, dalla luna al corallo, nel sangue gira rock e non gli serve altro sballo, perché si vuol godere quel ritmo che gli dai. E allora sete di gridare, sete di respirare, che non è fuori moda avere voglia di urlare, se serve a far suonare quello che hai dentro, anche quando è in controtempo. E la vita adesso al ritmo giusto, è ora di fare rock and roll, è ora di fare rock and roll. and roll. È ora di ballarci dentro finché il tempo c'è. È ora di fare rock and roll. È ora di fare rock and roll. È ora di far nuovo ritmo in questo nuovo sound. Ti suona la vita dentro a questo rock and roll. Ti chiama la vita. Rispondile e balla, balla, balla. È ora di fare rock and roll. È ora di salvare rock and roll. È ora di far nuovo ritmo, nuovo sangue, nuovi tutti. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, sì, quando vuoi, te lo abbasso. Eccolo qua. Eccolo qua, e questo qua. Sì, deve essere questo qua. Va bene, bene. Questo qua, questo qua. Ecco, sono le cose della diretta. Questo non c'è niente. Parliamo di Elvis, del chitarrista, sì. Caro chitarrista. Cosa dici? Adesso ci sente su in montagna. Hai fatto un bel assolo questo rock and roll. È un pezzo proprio un pezzo di rock and roll. Il rock and roll serve, è fondamentale. Lui si chiama Elvis in onore di Elvis Presley o così Elvis? Ah, direi, sì, per quello. Comunque questo pezzo qua, adesso noi diciamo non è facile trovare un pezzo così in un disco di adesso, perché certo. Non, cioè, sempre per quel discorso che dicevamo prima, che pensano che certe cose si vendano meglio o peggio, cioè la chitarra distorta e il rock, proprio rock. Sembra che non ci sia più posto oggi. Sembra perché? Che sia una cosa vecchia, che dicono che è fuori moda. Allora, infatti, la canzone dice questo anche nel testo: no? Che cavolo, il rock è quello che ti fa urlare là dentro, quello che sei, no? E quindi non si può castrare questa voce. No, di... il rock è il rock, c'è poco da fare. Il rock. Dal rock sono nate tante cose. Buon Elvis con la mossa ha portato il rock and roll. Elvis è stato il padre di tutti. Poi gli altri sono venuti dopo, secondo me. Abbiamo parlato di Dylan, maestro indiscusso. Sì, sì, però anche senza Elvis, ragazzi, non c'era niente. Beh, noi siamo contenti di uscire col primo disco e di avere dentro un brano così, perché penso che... Come lo fate coraggio. Dal vivo? L'abbiamo sentito dal disco, ma dal vivo lo fate ancora più forte. Peggio di così. Ancora peggio. Il produttore mi fa così, Damiano mi fa così. Con le code anche tutte belle lunghe. Ah, beh, le code, quante lunghe sono le code? Ma un bel po'. Bel po', sì. Beh, un bel po' da soli. Nelle code, posso chiedervi questo, ogni strumentista mette la sua, come le vecchie sì, band degli anni 60. So, gli assoli dei Cream, che Eric Clapton non finiva mai, Ginger Baker lo stesso. Ci diamo una misura, Ginger Baker non ci dà una misura. Ci diamo una misura, nel senso, maestro, che... Ginger Baker è qui presente, dimmi, maestro. Gli assoli di batteria di Vanda Benazzi a volte durano dai 15 ai 20 minuti. Ah, però l'ultima volta abbiamo dovuto mettere un asciugamano in testa che l'ha oscurato, e lui è continuato. Ah, continuato lo stesso. Bravo, maestro, complimenti. Non dice niente, no, però sono assoli di gran qualità, quindi si sente. Però è bello, cioè, non può essere pesante, secondo me è bello l'assolo della batteria, l'assolo di tutti gli strumenti, in un gruppo rock ci vuole, non dico sempre, però in un determinato momento del concerto è necessario, cosa dite? No, assolutamente, a parte le battute, cavolo. È necessario perché è proprio fa parte del rock, è questo, c'è poco da fare, è trasgressione il rock. Se non fosse trasgressione non sarebbe rock. Questa, io la vedo così, non so se voi, chiaramente. La vediamo così ancora, perché 23:37 dobbiamo suonare qualcosa. Trasgressivo o non trasgressivo dobbiamo suonare. Che cosa, Marco e compagni? Cosa avete deciso di fare? Ma vogliamo fare un bel pezzo ironico adesso. E trasgressivo. E trasgressivo, dai. Che si chiama Cupido smarrito una freccia, che parla, si ride un po' sopra, quello che un po' tutti può essere successo, no? Di un amore non ricambiato, che uno non capisce mai. Cosa a parte, ecco, di solito diciamo sempre che a parte il nostro batterista Benna Benazzi, tutti gli altri gli può essere successo, a lui no. Comunque sì, che allora uno a un certo punto non capisce mai che cos'è che non va, forse uno si risponde al fine che boh, Cupido avrà smarrito una freccia, chissà. Okay. Ok. Cassa maestro. Thank you. notti insonni, stomaco annodato, capello ingellato, espressione da sfigato, bello sei, innamorato. Lei non chiama, ma sarà impegnata, però adesso sta parlando, il suo numero è occupato, bello ormai, sei già fregato. E proprio non hai colpe, non c'è spiegazione, cerchi una risposta che non c'è, forse Cupido ha smarrito una freccia. Affondato dalla sua risposta, capello ingellato oppure il mento da soldato, non lo sai, ma ti ha sparato. SOS, cerca incertezze, forse neanche il mondo era vero tondo, chi lo sa e chi lo sa, ma dov'è Colombo? E poi ci provi con le rose o con le serenate, però oggi non funziona più, così cerchi asilo, chiami una sua amica, lei ti fa coraggio e mette giù. Oh, ma Cupido, dov'è l'altra freccia? Annodato, capello ingellato oppure il metto da soldato, bello ormai, ci sei cascato. E proprio non c'è modo di tornare indietro, questa volta è capitato a te, veder Cupido sbagliare una freccia. Però tu l'altra colpito bene, però con l'altra mi ha preso bene. Oh, ma Cupido, fa male sta freccia. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, benissimo. Devo salutare e ringraziare Paola Conforti. Grazie a lei ho avuto il vostro contatto e grazie a lei ci è arrivato il disco qui in radio. Bello questo pezzo. A me piaceva molto quel blues, quella armonica blues che hai fatto all'inizio. Me la rifai un secondo l'armonica blues per piacere? Blues. È proprio un'armonica blues secondo me. C'è poco da fare, io la vedo così, la sento così, non so se siete d'accordo. Sì, infatti voi. È uno di quei tocchi, diciamo, da live che, ecco, che va bene. Sì. Visto che ci siamo adesso, il maestro Luca, nonché maestro di batteria, ci dice tutti i riferimenti, tutto il sito della band e anche come, in modo per poter trovare il disco fisicamente, vai. Visto che abbiamo lui è stato scelto di queste cose, la comunicazione, esatto, è stato scelto lui come comunicazione. Vai. Siamo presenti. Mettiti avanti al microfono. Siamo Luca. Presenti su. Aspetta, se è possibile, io posso accompagnare. Sì, facciamo un cambiamento di chitarra. Vai, Luca. Dicevo su tutte le piattaforme. Come si dice? Piattaforme si dicono. Sì, piattaforme, giusto. Esatto. Facebook, Twitter. E abbiamo anche il sito. Che anche è, il sito. anche il sito che è www.controtempo.info. Inoltre c'è anche un forum in cui si può parlare liberamente di noi. Ci sono le presentazioni di ognuno di noi anche. Però non di altro, ricordiamo. Esattamente. Citiamo anche l'etichetta del nostro manager, il nostro Damiano DMB Music. E citiamo anche i produttori del disco, chiaramente Alex Bagnoli e Massimo Varini. Perfetto, una coppiata vincente sicuramente. Il disco è molto bello, molto interessante. È vivo, soprattutto quello. Dà proprio l'espressione, l'immagine vostra. E questo è importante, secondo me. Io la vedo così, la sento così. Sì, sì, sì. E questo è un pezzo ironico, tu hai detto, Marco. Molto ironico e divertente anche. Testo, sì, ironico fino a un certo punto, però insomma... Sì, sì, sì, no, no, infatti. No, è bello sapersi ridere sopra, perché alle volte quando uno si invischia nelle cose pensa sempre che sia tutto contro di lui, quindi invece poi se uno si guarda intorno le cose che succedono sono sempre le stesse, no, per tutti. Allora anche saper vedere che c'è uno con una risata poi ne vai avanti è la cosa più profonda che si possa fare, spesso una risata profonda, no? Certo, certo. Nel cassetto c'è qualche cosa nuova? Una nuova direzione? Oppure le cose rimangono come erano? Cioè, questo è il disco. E poi non ci sono state delle ulteriori uscite del cassetto? Ce ne sono di novità a cui stiamo lavorando. Adesso possiamo anticipare anche di un brano proprio di Natale. Ah, ok, natalizio. Ma natalizio in che senso? Natalizio proprio di Natale? Oppure natalizio musicalmente e non come testo? No, no, proprio che parla del Natale. Da un punto di vista anche quello lì un po' più a fondo. No? Non le solite cose. Dell'albero di Natale, basta. Ma proprio, ecco, la voglia di parlare di un Natale da un punto di vista un po' più profondo. Quindi siamo contenti di fare questa cosa qua. E poi abbiamo tante cose in cantiere e anche... C'è il materiale per il secondo album, ce n'è tantissimo. Stiamo cominciando a pensarci. Avete anche in cantiere qualche nuovo video, quello di Bud Spencer e Terence Hill? Sì, sì, sì. Stiamo in questi giorni mettendo a punto per il secondo singolo che uscirà ormai. Bene, bene, bene, questa è una cosa molto positiva. Vuol dire che siete sempre on the road, è così? Ah sì, eh? Sì, sì. Sì. Bisogna. Bisogna essere on the road, perché suonare... Proprio perché fondamentalmente prima cosa ci piace tantissimo. Abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo per l'ennesima volta, bisogna suonare, e suonare, suonando sempre di più, si fa, come si dice, gavetta, si fa amore, fa musica. C'è poco da fare. E spesso e volentieri le band di adesso, non è il caso vostro, ma spesso e volentieri vanno in studio di registrazione e non hanno... dietro un suono, cioè non hanno suonato, hanno suonato pochissimo, li mettono là eccetera, e ora si parla in modo non perfettamente carino di certi talk show che chiaramente mettono davanti il musicista, lo sbattono là in prima pagina e poi chi si è visto. È vero, sì sì, si è persa la capacità che il musicista poi è un lavoro come gli altri. Esatto, in Italia il musicista non viene considerato un lavoro, all'estero no, ste robe. Infatti. Musicista, che lavoro fai, come il musicista, sì. Ma è un lavoro. Ma poi è una cultura italiana quello che il musicista quando arriva a un certo livello poi non deve più suonare, deve suonare ogni tanto, invece vai insomma in tanti posti anche in America, comunque nei club insomma vai, trovi quando i chitarristi famosi non sono in tour, magari sono a fare una serata in un club. Io cito un episodio che ho già citato con altre band, ma è giusto ricitarlo. C'è un ragazzo qui di questa provincia di Venezia che un giorno è andato in America, è andato in un posto americano in un pub, ha cominciato a suonare il violino e di caso nel pub è entrato Bruce Springsteen. Si è seduto, ha sentito questo ragazzo che suonava il violino, ha detto: vieni su col palco con me. Hanno cominciato a suonare. Non è una battuta, capita. Capita anche se uno è un immenso come Bruce Springsteen, può capitare. In Italia queste robe non succedono mai. Come mai? Non si sa perché. Non c'è spirito di gruppo, ognuno vuole coltivare il proprio cortile. Ma è la cultura italiana, quella che l'artista deve farsi vedere il meno possibile per farsi vedere come è raggiungibile dalla gente. E questo qua è una distorsione grossa della musica, no? Cioè... La musica deve essere universale. Se uno è bravo, che sia Bruce Springsteen o sia un merito sconosciuto, non vuol dire assolutamente nulla. La musica è bello da tutti i punti di vista, non ci sono divisioni. Io la penso così, anche voi mi pare che la pensiate così. Ah certo, la grande. Ok, benissimo, segniamo un altro pezzo. Sono le 23:47, abbiamo circa 13 minuti di tempo per assaporare il valore di Patrizio, Luca, Marco, Andrea, Elvis in montagna che si sta ascoltando il Controtempo. Cosa il Controtempo adesso? Amato due brani, quindi... Ma possiamo fare anche tre, possiamo fare anche tre per quello, Poi eroi e grazie. Rifacciamo, ok. Beh, cosa fate allora? Potete fare quello che volete, non ci sono problemi di sorta. No, facciamo, sì, no, ci stiamo mettendo d'accordo al volo. Eroi in acustico. Cosa? Eroi in acustico. Vabbè. Dai, proviamo a fare Oltre la Maschera. No, perché Oltre la Maschera è un pezzo di quelli, insomma, che anche dal vivo è impegnativo. Adesso la prima volta che la rifacciamo in acustico, però ci siamo affezionati perché comunque parla di quel bello, no, che c'è dietro ogni persona, che è l'anima, no, la parte più grande, che spesso magari è nascosta sotto attraverso diversi strati di limite e di male, no, che in tutti noi affiorano, no? Solo che, certo, spesso si tende a identificare ogni persona con la maschera di limite che porta e si scorda del fatto che ogni persona porta in sé qualcosa di immensamente grande e unico, no? Dietro la, certo, porta. Io ho visto una cosa molto positiva e fa molto piacere. Ho visto il maestro che sta provando le battute. Sì, perché mi sto trovando con un set proprio diverso. Non ho mai suonato in vita mia. Ma un bongo e un tamburino. Ma la bellezza dello spettacolo dal vivo e soprattutto di rock è proprio questo: disorientare, esatto, nel senso fare feeling. Ok, esatto, suoniamo. Dai. Infatti, glielo faremo anche prossima serata. Gli togliamo la batteria all'ultimo momento. Esattamente. E gli mettiamo un bongo e. Alle tre, dal fumo che gira su chi accenderà, stanco di un'alba che non c'è. Sabato digerito in un bar, la domenica tra calcio e caffè e rabbia per gli errori di un arbitro che non va, mentre c'è chi fa rumore bestemmiando ad un rigore come grido di dolore. Ma se c'è un'anima che guarda in alto e se c'è un cuore che le batte accanto lì vicino a te, c'è un uomo con la maschera, ma c'è. Nel traffico che lunedì fa fuoco su chi tornerà nel suo posto di trincea e lotterà, travestito da soldato, chiuso nel suo carro armato, però dentro è disarmato. Ma se c'è un'anima che guarda in alto e se c'è un cuore che le batte accanto lì vicino a te, inaspettatamente vedrai che c'è un'anima che cerca lì con te la spinta per poi fare un salto fuori da dov'è, nascosto da una maschera, ma c'è. Perché ogni uomo non è un'isola, è il suo mare più bell'onda che si vede sulla sponda. Perché? Perché ogni uomo è più di un'isola, e se non ti fermi all'onda puoi trovare la sua sponda e salire, salire, salire, salire. C'è un'anima che guarda in alto e c'è un cuore che le batte accanto lì vicino a te. Se guardi oltre la maschera vedrai un uomo che è più grande dei suoi guai, un cuore che è più in alto e non lo sai. Se guardi oltre la maschera, se guardi oltre la maschera, se guardi oltre la maschera vedrai. Se guardi oltre la maschera vedrai. Se guardo oltre la maschera vedrai. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, questo era un brano difficile, francamente, come arrangiamento, un sacco di stop and go, di cambi di tempo, e Andrea ha iniziato alla Keter Jarrett, con una, un po' alla giarrettiano. Andrea, come mai questo inizio giarrettiano? Qualche secondo, poi le cose sono cambiate, ma questo inizio assolutamente giarrettiano. Allora, innanzitutto c'è la passione proprio per Jarrett, e poi c'è stato anche il finale di Buon Viaggio, sì, che ha avuto, anche ha avuto tipo di risonanza giarrettiana. Esatto. Come anche diceva, credo, prima Luca. C'era che il maestro si è preparato bene a questo pezzo, era un po', cioè, doveva prepararsi bene, era un pezzo difficile, francamente. Ma ecco, qui diamo il merito ai piccoli particolari. Proprio io ho visto, oltre al talento, l'attenzione ai piccoli particolari, sì, anche da parte del maestro numero uno, dire Luca Benazzi. E anche solo in questo piccolo contesto, adesso come le suono questi due strumenti? Esatto, avrei a disposizione in genere una batteria, ma come lo suono? Sì, perché riaffermiamo il discorso, questo era un pezzo difficile veramente, perché i cambi di tempo, le fermate, il maestro non è che fosse in difficoltà, però doveva elaborare con due strumenti che non sono la batteria, è poco da fare. Certo. Io ho capito questo, io non sono un musicista, però ho avuto questa sensazione bella. Bisogna, Luca, tradurre insomma un po' quello che di solito si fa con un altro strumento in questo nuovo... Anche lo stesso canto di Marco era diverso, lo stesso suono del bassista, chitarrista, maestro numero due, che te dovevi fare una cosa un po' diversa dalle solite. E ripeto, l'arrangiamento, l'introduzione giarrettiana dà uno stimolo stranamente particolare, non so se l'avete fatto per questa situazione, però era un pezzo difficile, però fatto bene secondo me. Io la penso così, la vedo così, l'ho sentito così, ve l'ho detto subito, ho avuto questa sensazione mentre il pezzo andava. Non eravate in difficoltà, assolutamente avete superato la difficoltà, però eravate tesi, avevate il feeling giusto per un pezzo difficile. Comunque è bello suonare con chi si intende di musica così, dai, con tutti i riferimenti. Ecco, ho sentito così. Abbiamo esattamente 5 minuti e dobbiamo concludere. 4 e mezzo mi comunico dalla regia. Allora, salutiamo, vi ringraziamo per questo lungo viaggio che avete fatto dalla provincia di Modena, tra Modena e Reggio Emilia, tra la via Emilia e West, siete arrivati qua. Io sono molto contento di aver ascoltato i Controtempo, col nuovo album Tutti i giorni eroi, che è uscito e si trova in qualsiasi negozio di dischi, più sui portali che Luca, il maestro numero uno, ci ha prima enunciato. Terminiamo con cosa, ragazzi? Con una canzone che si chiama Grazie. Che è bellissima, che io ho scelto come pezzo trainante dell'album da un mese a sta parte. Io ho scelto questo, io sono d'accordo con voi, io vi ringrazio della mia scelta, e me lo finite con questo pezzo, bellissimo. Grazie a tutti voi di averci ospitato. Grazie a voi, grazie a Michele Ottosoni regia, a Roberto Baldi che ha curato tecnicamente il discorso. La prossima settimana ci saranno altri live, il martedì e mercoledì, domani ci sarà il programma di Agostino. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie per la luce che mi illumina un'idea e la spinge fino al suono della voce. Grazie per la terra che io chiamo casa mia e il mio passo che cammina più veloce. Grazie per la luna sopra le montagne che mi fa alzare il mio orizzonte da me. E grazie per le stelle sopra questa notte che fa da culla a tutti i sogni e i perché. Grazie per la sveglia che mi suona il lunedì e che non mi fa rischiare di non fare. Grazie per il liga che mi canta in un CD, per il pane e per il vino su un altare. Grazie per la birra offerta da un amico che ha bisogno di parlare con me. Grazie per il fango sulla tuta e sul keyway, dopo il calcio e quando torno dai miei. Grazie di tutto sto vento che c'è, grazie di tutta sta vita per me. Grazie del cielo che è sempre dov'è e delle facce qua sotto con me. Grazie a te che mi dai fiato e vita. Grazie per la mano di chi mi riporta su, quando non so più rialzarmi da uno sbaglio. Grazie per l'abbraccio che non scorderò mai più, e per quella brutta copia scritta meglio. Grazie per la goccia di sudore in fronte che fa venire fuori il meglio di me. Grazie per gli amici la domenica nel bar, e per l'anima in un giro di sole. Grazie di tutto sto vento che c'è, grazie di tutta sta vita per me. Grazie del cielo che sta lì dov'è, e della stella che cade per me. Grazie a te che mi dai tutto quello che mi dai. Grazie a te che mi dai fiato e vita e un'altra salita per me. E che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che mi hai dato fino a qui, e del brivido che sento quando scrivo. Grazie, solo grazie, perché altro non si può, per parlare della vita che ho. Grazie, solo grazie, ma anche scusami però, per le volte che dimenticherò. Grazie per la vita che ho. Grazie. Grazie per la vita che ho.